Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo subito la nostra mail, unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog. Sulla prima pagina del Sole 24 Ore Online si chiama Guardie o Ladri. Prima di tutto un ringraziamento doveroso ad un radioascoltatore che si chiama Massimo Vitali, che mi ha scritto una bellissima lettera il 29 settembre in cui dice: caro Galullo, lei saluta sempre il radioascoltatore, una persona molto cortese ed educata, ma perché non saluta mai quelli che l'ascoltano in replica? Faccio il panettiere, dice Massimo Vitali, e siamo in molti ad ascoltarla di notte. Ebbene, mi fa molto piacere. Ho sbagliato, se non l'ho fatto nel passato, mi scuso. Il mio saluto va sempre a tutti i radioascoltatori in qualunque momento della giornata ascoltino la nostra trasmissione. E quindi il saluto va anche a quelli che scaricano via podcast tutte le puntate. Come sapete, è possibile trovarle nell'archivio di Un Abuso al Giorno nel sito www.radio24.it. Grazie Vitali e buon lavoro, visto che ci sta ascoltando di notte. Allora, non vi sarà sfuggito, alcune settimane fa, una clamorosa e straordinaria denuncia di una persona coraggiosissima. Si chiama Frediano Manzi, che è il presidente dell'associazione SOS Racket e Usura, che con un colpo di genio, un colpo giornalistico, ha fatto ciò che dovrebbero fare molti di noi: ha videoregistrato in diretta il momento in cui una persona molto molto scaltra era in trattativa per la compravendita non di una casa, ma dell'affitto, o meglio del subentro in una casa popolare, in un alloggio delle case popolari di Milano. Addirittura questa persona poi si spingeva in successive interviste anche a dire che effettivamente la situazione è quella, se le poteva dare una mano la dava. Nell'intervista invece rubata in maniera intelligente da Manzi si spingeva a dire anche che peccato che fosse arrivato così tardi, perché aveva molte case poco prima a disposizione. Quindi oggi l'avrete capito, parleremo di racket a Milano, proprio a partire dal nostro colloquio con Frediano Manzi. Buongiorno Manzi. Buongiorno a voi. Allora, perché ne parliamo con Frediano Manzi? Non soltanto per il suo coraggio, ma per seguire il filo logico di quello che abbiamo detto moltissime volte in questa trasmissione e in quello che scrivo anche sul Sole 24 Ore sul blog. Vale a dire che Cosa Nostra, la criminalità organizzata, l'andrangheta, la mafia, la camorra, quello che è, sta risalendo la linea della Palma, come diceva Leonardo Sciascia, pericolosamente e velocemente verso il nord Italia. E il pericolo lo vive quest'uomo sulla sua pelle, perché recentemente, alcuni giorni fa, la sua impresa è stata colpita da colpi di pistola, la sua sala cinesca è stata colpita da colpi di pistola. Partiamo da qui, ma non per piangerci addosso, Manzi, lei non è proprio il tipo. Partiamo da qui. Che tipo di gesto è sparare contro un esercizio commerciale a Milano? Come lo vogliamo interpretare? Ma nel linguaggio mafioso è un avvertimento puro e chiaro. Cioè, sparare, quando si sparano dei colpi su un negozio, vuol dire che è un avvertimento mafioso. Questo avviene in tantissime attività commerciali del sud dell'Italia, a partire dalla Puglia, Sicilia, Calabria, Campania, si inizia così. Il passo successivo è la bomba o l'omicidio. Cerchiamo di parlare come se fossimo intorno ad un tavolo e di fronte a noi ci fosse una moltitudine di radioascoltatori, tale è quella che ci segue. Cerchiamo di convincere i nostri radioascoltatori nelle zone della Lombardia, del nord Italia, che la sensazione della mafiosità non è più un concetto soltanto che riguarda il sud. Lei che parole userebbe per convincerli? Ma io dico una cosa molto semplice: nella Milano dell'Expo, nella Milano da bere, la mafia esiste e si è incancrenita, è già entrata nel loro tessuto sociale. Questo è supportato, oltre dalle nostre testimonianze e informazioni e denunce che raccogliamo, da magistrati dell'antimafia, che hanno già detto: attenzione, sono state già costituite 5 anni prima, 6 anni prima delle imprese che prenderanno in mano i grandi appalti dell'Expo. Questo è un dato di fatto. Assolutamente, e anzi vi invito, cari radioascoltatori, a seguire il Sole 24 Ore nelle prossime settimane, perché ho in cantiere un paio di inchieste che fanno seguito ad alcune che ho già fatto proprio su Expo 2015. Ma proseguiamo con la nostra chiacchierata, Manzi. Perché questo salto di qualità nella sua denuncia? Cioè, suppongo e sono sicuro che la sua associazione non è nata ieri, quindi lei le denunce non le sta facendo da ieri. Allora le chiedo, perché questo salto di qualità con la videoregistrazione, cioè con l'immagine scolpita nella memoria degli italiani, oltre che in quella dei magistrati che stanno indagando? Esatto. Allora, se noi avessimo fatto la solita denuncia che abbiamo sempre fatto nelle nostre inchieste, che possono riguardare il casino di Campione, quello di Lugano o quant'altro, denunce di racket, estorsione e usura, sarebbe rimasto un foglio di carta, quindi sarebbe stata la notizia che è stata data sempre questi anni al lavoro della nostra associazione. Ci siamo un po' tecnologizzati, sì. Scusatemi. No, no, ma va bene, ci siamo capiti. Ecco, che vuol dire in sostanza? Che vogliamo dare un salto di qualità al nostro lavoro, ossia documentare la prova del reato. Ed è successo questo: noi ci siamo in pratica inseriti tra 30 anni che le istituzioni sapevano, 30 anni che l'autorità giudiziaria sapeva. Noi siamo stati il terzo soggetto che si è inserito con un video denuncia shock, perché parliamo di questo, è un video denuncia shock, assolutamente. E ha creato molto imbarazzo in entrambi i palazzi, e questo non lo metto assolutamente in dubbio. Allora, noi siamo qui con questa trasmissione per stare vicino a chi combatte con i fatti e non a parole, perché dell'antimafia parolaia, della politica parolaia, io personalmente non ne posso più e non voglio avere niente a che fare, ma stiamo con i fatti accanto a chi combatte con i fatti, come l'associazione SOS Racket e Usura, i comportamenti criminali. E allora le chiedo, Manzi, chi le è stato vicino e chi invece avrebbe dovuto esserle vicino e si è accorto che magari ha chiuso un occhio, si è allontanato, insomma, ha ciurlato un po' nel manico. Ma guardi, io ho avuto un primo forte sostegno dall'assessorato alla sicurezza, nella persona proprio dell'assessore Maullo, che si è da subito schierato al nostro fianco, appoggiando la nostra iniziativa forte di denuncia. Abbiamo notato però, mi permetta, una certa latitanza da parte del Comune di Milano, ed è successo un qualcosa di insolito. Permettetemi il mio sfogo, ma io devo rimarcare questo problema. Assolutamente, lei è libero di dire ciò che crede. Certo, si è negato dall'inizio, dopo che abbiamo dimostrato che, attenzione, il problema del racket delle case popolari di via Padre Luigi Monti è un problema che investe tutta la città, e lo abbiamo dimostrato con altri 5 video, ossia in altri 5 quartieri di Milano, oltre a quello di via Padre Luigi Monti, il racket organizza e sfonda le abitazioni, mette dentro le persone, si fa pagare, in moltissimi casi addirittura incassano gli affitti e gestiscono il traffico di sostanze stupefacenti. Detto questo, il vice sindaco della città di Milano, Riccardo Decolato, persona che io personalmente stimo, fa un'uscita, secondo me, imprudente, un autogol clamoroso, delegittima di sana pianta il nostro lavoro, sostenendo che il racket a Milano non esiste e che è frutto di faneticazioni. Ecco, sì, queste parole le ho già sentite, la mafia non esiste, le ho sentite e le ho lette a partire dagli anni 70 a Palermo, quando addirittura a pronunciarle erano vescovi, le ho sentite poi a Roma, le ho sentite poi a Milano. Sì, sì, siamo abituati a questo tipo di farneticazioni. Il racket a Milano esiste, punto. È un dato di fatto, è inutile girarci intorno. Ovviamente, caro Decorato, noi siamo qui per ospitare quella che è la sua legittima opinione. Noi saremo qui per confutarla, perché dire che il racket a Milano non esiste è come dire che a Milano non esisteva la nebbia fino a 30 anni fa. Manzi, un sito internet, un telefono, come possiamo starle vicino? Oltre che magari con una semplice trasmissione come questa, che non ha pretese ovviamente. Guardi, noi saremo grati di poter dare il nostro sito internet, che è www.sos-racket-usura.org, dove ci sono 5 indirizzi di posta elettronico, 2 telefoni cellulari dove contattarci, attivi 24 ore su 24 per ogni tipo di emergenza che riguarda ogni forma di criminalità organizzata, ma anche appunto usura, estorsione o semplici, diciamo, persone che hanno dei problemi, insomma, legati a piccoli balordi. Noi diamo ascolto a tutti, perché il compito della nostra associazione è far emergere la voce e dare voce alle persone per bene che si rivolgono a noi. Benissimo, allora grazie a Frediano Manzi, sicuramente saremo accanto alla sua battaglia. Grazie a Carmelo Lauricella in regia e in studio ad Antonella Migliaccio, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.